Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché l'apposita app che potete scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it, che vi permetterà di ascoltare la vostra radiolina preferita in tutto il mondo. Fra qualche tempo anche in DAB, ma quello avremo tempo per parlarne più diffusamente. Mercoledì 10.30 all'incirca è l'ora dell'inizio di una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club e che si propone per un paio d'ore di proporvi musica registrata dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. Città Fujiko Live Club che inizia sempre con una novità e anche oggi non è da meno. Novità che è parecchio succulenta, soprattutto per gli amanti del cosiddetto Britpop. Infatti abbiamo in scena un quartetto che arriva da Londra, che è stato attivo dal 1989 al 2003, poi si è riformato nel 2010 ed è tuttora attivo. Un quartetto che poi nel 1996 è diventato quintetto con l'aggiunta di, un tastierista e che si chiamano Suede. Al di là di Oasis, Blur e quant'altro, come dicono i saccenti, i Suede sono uno delle punte di diamante del cosiddetto Britpop e sono stati nominati miglior band britannica nel lontano 1992 dal Melody Maker, quando ancora esisteva. E Britpop, che ha appunto, come dicevo, le proprie punte di diamante in Oasis e Blur, ma al di là di questo c'è tutta una pletora di altre bands che sono famosissime in patria, un po' meno nel resto del mondo. Suede sono una di queste band che però appunto in patria, soprattutto nella figura del frontman che si chiama Brett Anderson, che è il cantante, in patria, dicevo, sono veramente osannatissimi e famosissimi. Il loro ultimo album si chiama Autofiction, è uscito nel settembre del 2022, ma lo scorso anno, esattamente l'8 dicembre del 2023, quindi è una novità per modo di dire, nel senso che è una novità per quel che riguarda la mia trasmissione, non la radio in generale. Comunque Autofiction è stato ripubblicato sul finire del 2023, in versione 3 CD, il primo naturalmente è Autofiction originale, il secondo è un CD di amenità varie, il terzo invece è una registrazione dal vivo sono registrazioni dal vivo, per meglio dire, effettuate in diverse località e in diverse locations. Il brano che ho scelto per farvi ascoltare, questo Autofiction, diciamo che il terzo CD, quello dal vivo, riproduce pedissequamente Autofiction originale, cioè i brani sono gli stessi nello stesso ordine, però suonati dal vivo, anche se poi la differenza non è più di tanta. Comunque il brano che dicevo vi propongo come esempio di questo album si chiama Black Ice, il ghiaccio nero, ed è stato registrato alla Guildhall di Southampton il 24 marzo del 2023. Questi sono Suede. We'll be right back. È scritto Suede, ma si pronuncia Swede. Loro, come dicevo, vengono da Londra e questo è un album che ha avuto un grande successo naturalmente in Gran Bretagna. Autofiction, questa è la versione triplo CD che è stata pubblicata sul finire dello scorso anno e che comprende questa registrazione effettuata a Southampton nel marzo dello scorso anno. Il brano si chiama Black Eyes. E questo Black mi ha dato lo spunto, un'idea come poche altre, a dire il vero, per ascoltarci brani nella prima parte della trasmissione che hanno Black nel titolo. Black nel titolo e nel testo, naturalmente. Testo che però chiaramente non andremo a sviscerare, perché altrimenti ascolteremo solamente due o tre canzoni e niente altro. Invece a me piace più farvi ascoltare la musica dopo una piccola introduzione, diciamo così. E andiamo ad introdurre Amy Winehouse, che è un personaggio caratteristico, tipico della musica rock, potenzialità enorme, bravissima, un grande successo, rovinata dalle droghe e dall'alcol. Lei è morta nel 2011, ma il suo ricordo è ancora bello bello potente. Ha fatto solamente due album in studio durante la sua carriera in vita, diciamo così, ma poi postume sono uscite una caterva di compilations e di live album. Uno di questi si chiama The BBC, che è un po' un misto di tutti e due, perché i primi due CD, triplo, sono due CD che racchiudono la sua carriera, mentre il terzo è stato registrato dal vivo a Londra alla Porchester Hall l'8 marzo del 2007, quindi qualche anno prima della sua morte. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei suoi più famosi, si chiama Back to Black, Amy Winehouse. Like Apart from that, she quite liked it. Parla di un cavallo nero e di un ciliegio, questo brano, un titolo un po' particolare, si chiama Black Horse and the Cherry Tree. Lei è Katie Turnstall, Grande personaggio, grande cantante, proviene da Edimburgo in Scozia, anche se ha avuto una serie di problemi giovanili, diciamo così, con adozioni varie, insomma, una storia veramente travagliata. Però veramente, veramente molto, molto brava, secondo me. Ha fatto un sacco di album in studio, di cui uno a quattro mani con Susie 4, che spero alcuni di voi ricordino, ma ha fatto anche diversi album live, alcuni dei quali, tipo questo. Sono i famosi Instant Records, quelli che venivano registrati nel corso della serata e venduti subito dopo il concerto ai presenti, ma chiaramente si erano fatte sempre che copie in più che poi venivano messe sul mercato normalmente. Questo è stato registrato a Londra nel marzo del 2011, appunto si chiama Live in London March 2011. È stato registrato al Forum di Londra l'8 marzo del 2011, appunto. Black Horse and Cherry Tree, il brano che ci siamo ascoltati. E dopo due ragazze, che hanno aperto questa piccola rassegna di brani che hanno come titolo, nel titolo per meglio dire, la parola black. Andiamo ad ascoltarci una canzone intitolata a una ragazza, in particolare a una magica ragazza nera. Si chiama Black Magic Woman, questo brano che ci andiamo ad ascoltare. Molti di voi lo ricorderanno, nella versione di Santana, ma questa è la versione della band che l'ha inciso, originariamente e anche scritto, visto che Peter Green, il leader dei primi Fleetwood Mac, quelli britannici, quelli blues, i migliori, secondo me. E scrisse appunto questo brano. Loro nel 1975 hanno traslocato, sono andati i due rimasti, John McVie e Mick Fleetwood, sono andati negli Stati Uniti e da lì hanno avuto un successo strepitoso con Rumours, questo sicuramente lo saprete. E questo è un vecchio album che si chiama Live in Boston, che è stato pubblicato in una miriade di versioni. La versione che vi propongo è quella in 3 CD, che fra l'altro sono ospitati in una splendida box, in uno splendido box tondo, ed è stato registrato al Boston Tea Party di Boston, appunto, il 5, il 6, il 7 febbraio del 1970. È la lineup che preferisco, quella con tre chitarre: Peter Green, Jeremy Spencer, Danny Kirwan. È veramente magico. Black Magic Woman, loro sono Fleetwood Mac. Woman, I can't.

Spero vivamente che non ci sia necessità di introdurre nella band, ma per i pochi che non lo sapessero, questi erano Led Zeppelin, né il brano che è uno dei loro più famosi, si chiama Black Dog, il cane nero, che è un altro dei loro pezzi più incredibili veramente, che hanno portato il Led Zeppelin al massimo della loro creatività e della loro carriera. Questa registrazione arriva dal reunion show che fecero alla All Q Arena di Londra il 10 dicembre del 2007, l'album doppio si chiama Celebration Day, pensate 20 milioni di richieste per i 18.000 posti della All Q Arena. Non ci fu ripetizione, un concerto secco. Naturalmente alla batteria purtroppo non poteva sedere John Bonham, ma c'era suo figlio Jason. Il tutto si chiama Black Dog. A volte sono stati assimilati ai Led Zeppelin questi Soundgarden. Loro venivano da Seattle, sono stati attivi dal 1984 al 2018, sono sciolti dopo la morte di Chris Cornell, il loro cantante, che aveva una voce veramente assimilabile a quella di Robert Plant dei Led Zeppelin. Dopodiché ci sono state una serie di problemi legali fra la vedova di Cornell e il resto della band, pare che adesso si siano risolti e pare che dovrebbe uscire, pare che dovrebbe, quindi è molto dubitativo, uscire un album in studio prossimamente con i brani che erano già stati registrati ed erano pronti all'epoca della morte di Chris Cornell. Live on I-5 si chiama questo album, il loro primo album live, uscito durante la vita della band di Chris Cornell. L'I-5 è l'autostrada che praticamente, lambendo la costa ovest degli Stati Uniti, porta dal Messico al Canada, ed è un viaggio abbastanza lungo, oserei dire. Comunque molto interessante nella prima parte, quella che ho fatto un paio di volte, nella seconda, quella più a nord, invece purtroppo non ci sono mai stato, ma spero di rimediare presto. E in questo album, che è stato registrato in diverse località e in diverse epoche, ci sono due brani che hanno Black nel titolo. Il primo si chiama Fell on Black Days, e invece quello che ho scelto per voi è questa registrazione effettuata a Mercer Arena di Seattle, la loro città di provenienza, stato di Washington, il 17 dicembre del 1996, e si chiama Black Hole Sun. As your face lies in the snow, in the sun in my disgrace, boiling heat, somehow stench, neath the black the sky looks dead. Come my name, throw the cream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stood on rain, cold and damp, still the warm and tired firm. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, oh, can you see? In my youth, I pray to keep heaven sent my hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Come on. Black hole sun. Around us. Accoppiare Pearl Jam e Soundgarden era abbastanza scontato, erano proprio i Pearl Jam che ci siamo ascoltati in questo brano che si chiama Black. L'album in particolare, Pearl Jam naturalmente, che anche loro vengono da Seattle, sono attivi dal 1990, tuttora attivi. Tra l'altro nel 98 hanno rubato, fra virgolette, il batterista Matt Cameron proprio a Soundgarden, che ci siamo ascoltati prima. Questo album, dicevo, si chiama Give Way, è uscito come long play in CD per il Record Store Day dell'aprile del 2023 ed è veramente notevole, racchiude una registrazione effettuata a Melbourne in Australia il 5 marzo del 1998 e anche in questo caso, a dire il vero, ci sono due brani con la parola black nel titolo. Il primo è Spin the Black Circle, mentre a voi ho fatto ascoltare un brano che si chiama semplicemente Black. Hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti negli anni 80 e primi anni 90, anche se hanno tuttora un buon successo, ma non come quello che hanno avuto in quei tempi. Dave Pirner è l'unico membro originale rimasto, cantante e chitarrista dei Soul Asylum, band molto poppeggiante, molto carina, molto accattivante. Ha fatto 4 album dal vivo più una marea di singoli con pezzi live. Questo è uno di quei singoli, si chiama Black Gold ed è il brano originale in studio, mentre a seguire ci sono 3 brani registrati dal vivo al Deep Ellum di Dallas, Texas, il 4 dicembre del 1992, e il brano che vi propongo è proprio quello che in versione live dà il titolo al singolo, Black Gold. Loro sono Soul Asylum. Oh, I think we'd like to play another song for you, if you don't mind. Off the streets, gives them something to do, something to eat. This spot was a playground, this flat land used to be a town. Black go.

A concludere questa piccola rassegna di brani che hanno la parola black, nero, nel proprio titolo è arrivato Kenny Wayne Shepherd insieme alla sua band. Lui è un giovane chitarrista, più tanto giovane, ma ha iniziato la carriera giovanissimo, viene da Shreveport in Louisiana e questo brano addirittura raddoppia i colori perché si chiama Blue on Black, blu su nero appunto. L'album si chiama Straight to You Live, è il secondo album della sua live, della sua discografia. È stato registrato al Leverkusener Jazz Stage a Leverkusen in Germania il 7 novembre del 2019 per la trasmissione televisiva tedesca che si chiama Rock Palast. Seconda parte di Città Fujiko Live Club del 9 ottobre 2024, iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, album dei Swede che si chiama Autofiction, originariamente uscito nel 2022 ma poi ripubblicato in versione ampliata, versione 3 CD nel 2023, una novità come ribadisco ancora una volta per quel che riguarda la mia trasmissione, magari altri colleghi in radio l'hanno già fatto ascoltare più e più volte. Il terzo CD di questo triplo dischetto è un live registrato in diverse occasioni e in diverse epoche naturalmente. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama The Boys on the Stage ed è stato registrato a Rock City di Nottingham, Gran Bretagna naturalmente, come si sa quella di Robin Hood, e il tutto il 10 marzo del 2023. Swede naturalmente sono uno dei gruppi di punta del cosiddetto Britpop britannico e sono tuttora vivi e vegeti e continuano a suonare in giro soprattutto per la Gran Bretagna, perché come detto prima, al di là di Oasis e Blur, gli altri gruppi del Britpop sono un po' non moltissimo conosciuti nel resto d'Europa, tantomeno negli Stati Uniti. I can even be her. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. E ancora una volta tantissime cose, e ancora una volta il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Iniziamo esattamente dal 1970 con una delle innumerevoli migliaia, oserei quasi dire, uscite discografiche che la famiglia di Frank Zappa ha pubblicato dopo la sua morte. Qui abbiamo un cofanetto che è accreditato solamente a The Mothers, solitamente è Frank Zappa and the Mothers of Invention, qui invece è un quadruplo CD in uno splendido cofanetto che è attribuito appunto solo a The Mothers. Il primo CD è in studio, fra l'altro è stato registrato a Londra, mentre i restanti tre sono registrati dal vivo, anche qui in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Easy Meat ed è stato registrato alla Florida State University a Tallahassee, in Florida naturalmente, il 9 ottobre del 1970. Grande formazione quella, come sempre, quella delle Mothers. Oltre a Frank Zappa abbiamo George Duke alle tastiere, Ian Underwood anche lui alle tastiere e alla chitarra, e soprattutto Ashley Dunbar, che è un batterista fenomenale. Purtroppo, per quel che mi riguarda, ci sono anche Mark Wolman e Walt Kynan alle voci, che spesso rovinano i brani con cazzeggi vari. Ma comunque questo non è il caso di questa splendida Easy Meat. Loro sono The Mothers, era il 9 ottobre del 1970. Si chiama Easy Meat, questo brano che ci siamo ascoltati dalle Mothers. Ho dimenticato di dire prima che il cofanetto quadruplo da cui è tratto questo brano si chiama semplicemente 1970, cioè 1970, che è appunto la data di registrazione di tutti i brani live che sono compresi in questo quadruplo cofanetto. Appunto, il primo, come dicevo, in studio, gli altri tre CD sono tutti dal vivo in diverse epoche. Easy Meat è stato registrato in Florida il 9 ottobre del 1970. Side one. You mean the guys or the girls? Everybody. There's three girls. Il quinto album in studio di Peter Gabriel si chiama semplicemente So. È un album bellissimo, come del resto quasi tutti gli album, anzi tutti direi gli album di Peter Gabriel. È stato pubblicato nel maggio del 1986, ma è stato ripubblicato nel maggio del 1986 come long play, ma è stato ripubblicato come triplo CD nell'ottobre del 2012. Il secondo e il terzo CD sono live, il primo naturalmente è l'album debitamente rimasterizzato, e il, dicevo, il secondo e il terzo CD sono stati registrati in Grecia. Non è un fatto usuale, fra l'altro è stato registrato al Teatro Licabetto ad Atene. Sapete, tutti coloro che sono stati ad Atene lo sanno qual è il Teatro Licabetto. E il 9 ottobre del 1987 andiamo ad ascoltarcelo, il grande Peter Gabriel e la sua Shock the Monkey. This is a song about jealousy, it's called Shock the Monkey. We'll be right back. Un teatro storico, antico, è la sede di questa splendida registrazione, che il brano si chiama Shock the Monkey. La registrazione invece effettuata al Teatro Licabetto di Atene il 9 ottobre 1987, contenuta nella ristampa di Saw, il quinto album in studio di Peter Gabriel. La ristampa è uscita nel 2012, una cosa che naturalmente, quando si parla di Peter Gabriel, io consiglio indefessamente. Una delle mie manie, diciamo, però non faccio apposta, è quella di avere un debole per i gruppi che assolutamente sconosciuti ai più avrebbero invece meritato più successo. Ne cito uno che si chiama Eddie and the Hot Rods, che forse ci ascolteremo la prossima settimana, ma nel caso specifico di oggi è un gruppo che viene da Wolverhampton in Gran Bretagna e si chiamava Mighty Lemon Drops. Per me è assolutamente in grado di avere un grande successo, erano brani accattivanti, erano bravi a suonare, facevano ottimi concerti, però purtroppo non hanno avuto il successo che meritavano. Sono stati attivi dal 1985 al 1992, anno in cui è uscito questo album che si chiama Ricochet, il loro ultimo album, che poi è stato ripubblicato qualche anno fa con 9 pezzi, di cui 7 dal vivo aggiunti. I 7 pezzi live sono stati registrati al Cal Poly Outdoor Theater a Pomona in California, cioè al Politecnico californiano, appunto a Pomona, il 9 ottobre del 1992. Il brano che ho scelto per voi è l'ultimo del concerto, si chiama Inside Out, loro si chiamavano Mighty Lemon Drops. Thank you. This is called Inside Out. I really can't get over the beauty of it all. The beauty that is surf saxophone. Fate bene attenzione perché questa è difficile. La band che ci siamo ascoltata si chiama Colonel Lex Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, cioè la brigata senza paura di volare, la brigata di rane senza paura, di rospi per meglio di dire, senza paura di volare, di Lex Claypool, colonnello, che Lex Claypool è un grandissimo bassista, assolutamente fantastico. La sua band principale si chiama Primus, però lui, che fra l'altro poi viene da Richmond in California, ma risiede stabilmente ormai a San Francisco da anni, e la sua band principale, dicevo, si chiama Primus, però nei tempo libero si diletta con diverse formazioni. Questa è una di quelle. Lui è Les Claypool, è bravissimo come bassista, ma è assolutamente folle, diciamo sulla scia di Frank Zappa fa delle cose veramente veramente incredibili. Comunque questo album si chiama Live Frogs, è uscito in due volumi, entrambi registrati alla Great American Music Hall di San Francisco il 9 ottobre dell'anno 2000. Il secondo volume, fra parentesi, questo che ci siamo ascoltati è il primo. Il secondo volume comprende tutte covers dei Pink Floyd ed è veramente notevole. Qui invece di covers ne abbiamo due, la prima dei King Crimson, la seconda dei Pink Floyd stessi, ma questo è un brano scritto dallo stesso Les Claypool che si chiama Undershot, il tutto appunto registrato a San Francisco il 9 ottobre 2000. Si chiama Steven Lento, ma molti lo chiamano Miami, altri Little Steven. Lui viene dal New Jersey naturalmente, partner da sempre dai Bruce Springsteen, prima con gli Steel Mills, poi lui entrò in Soulside Johnny and the Asbury Jukes, ma poi alla fine fu convinto da Bruce a entrare nella E Street Band, dal quale uscì per una carriera solista che non gli ha portato tantissima fortuna, a dire il vero. Però nel 1982 formò Disciples of Soul, che riformò qualche anno fa in versione ampliata, una band di 15 elementi con fiati, percussioni, coriste, eccetera. E nel frattempo, dopo la riunione, chiamiamolo così, ha fatto diversi album live, 3 per la precisione, e che due dei quali secondo me sono quello che dovrebbe essere un album live triplo, 3 CD. I primi due comprendono il concerto integrale, nel terzo invece amenità varie, covers, collaborazioni. Infatti c'è una collaborazione con Bruce Springsteen, con il cantante della Jiggles Band, Peter Wolf, e con altri. E ci sono covers tipo quelle che ci andiamo ad ascoltare, che è stata registrata alla Danforth Music Hall di Toronto in Canada il 9 ottobre del 2017. È un super classico di John Lennon, loro sono Little Steven and the Disciples of Soul. Il pezzo si chiama Working Class Hero. You're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and hit you at school. They hate if you're clever and despise the fool. But you're so fucking crazy you can't follow the rules. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. You're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. With religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free. But we'll always be peasants to them, can't you see? Working class hero, something to be. Working class hero, something to be. È sempre stato un grande arrangiatore, Little Steven, e lo dimostra anche in questa versione di Working Class Hero di John Lennon, registrato a Toronto in Canada il 9 ottobre del 2017 insieme ai suoi Disciples of Soul. Group called the Animals. Where are they from? Oggi abbiamo una registrazione anche degli anni 20, una cosa un po' particolare. Si tratta di un album triplo che racchiude un concerto di una band che si chiama Joe Russo's Almost Dead. Joe Russo è un grande batterista, ha suonato un po' con tutti nell'ambito delle jam bands americane. Nel 2013 assemblò una band, un quintetto, che si proponeva di fare covers dei Grateful Dead, infatti si chiama Joe Russo Quasi Dead, però poi in seguito hanno fatto covers anche di altri artisti, non ultimo Bruce Springsteen, e nel corso all'inizio della carriera, per qualche anno, diversi anni, consentivano di scaricare gratuitamente i concerti ed era una manna, veramente un centinaio, 100-150 concerti gratuiti, quasi tutti tripli, però poi si sono affiliati a un sito che si chiama Nax.net, che propone sì concerti ma a pagamento, quindi la cosa è un po' cambiata. Qui abbiamo uno degli ultimi free downloads, che racchiude un concerto effettuato al Wellmont Theater di Montclair nel New Jersey il 9 ottobre del 2021. Naturalmente quella che vi propongo è una canzone dei Grateful Dead, si chiama Alias the Millionaire. Loro sono Joe Russo and the Almost Dead. Forzatamente il pezzo più corto di questo concerto di Joe Russo's Almost Dead a Montclair, New Jersey, il 9 ottobre del 2021, si chiama Allies di Millionaire. Come al solito parlo troppo, per cui il tempo oramai stringe, e terminato Recorded Today insieme a Joe Russo's Almost Dead, la conclusione della trasmissione è affidata a, naturalmente, la novità che vi propongo oggi dei Swede. E prima però vi voglio ricordare che appunto vi siete ascoltati Città Fusico Live Club, un paio di ore di musica live ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. Naturalmente vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo per nuovamente musica live di tutti i generi, quasi, e di tutte, soprattutto di tutte le epoche in cui è nata la registrazione. Vi lascio, come dicevo, insieme ai Shoe, del loro album che risponde al nome di Autofiction, che è stato ripubblicato 3 CD, 2 in studio e 1 dal vivo. Ciao a tutti da Nevio.